non mi preoccupa, perché c'è la convinzione da parte mia che devo fare i risultati. A me non mi piace fasciarmi la testa prima di spaccarmela. Io sono uno che quando vedo il sangue metto i punti, ma se non vedo niente vado avanti, nel senso non vedo il motivo perché devo aver paura. Vediamo se possiamo cambiare anche, come dire, questa storia, no? Tutti convocati di Carlo Genta. Reduce dalla conferenza stampa di presentazione del nuovo palinsesto di Radio 24 che partirà lunedì prossimo 30 settembre, compresa la presentazione della nuova stagione di Tutti Convocati, che grazie al successo planetario, è vero, di questo programma sarà più lungo. Staremo insieme ogni giorno dalle 14 alle 15:20 e avrò un compagno di banco che ormai credo via Twitter abbiate capito chi è. Insomma, se non l'avete ancora capito, andate su Twitter e lo scoprirete. Solo vivendo avrete nostre notizie a mezzo stampa, non con gli avvocati, a mezzo stampa. Dunque, parliamo di quanto abbiamo visto ieri sera. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. La notte è strana, il suo chiaroscuro, i suoi effetti ottici, le sue ombre che fanno sembrare qualche volta giganti quelli che normalmente giganti non sono. E fanno sembrare piccole anche le grandi signore del nostro calcio, che non sempre di notte sono poi così belle. T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Centrale di Zaza, lo vede Kurtic, palla dentro e posizione regolare. Zaza prova a dare la conclusione e gol di Zaza, il pareggio improvviso del Sassuolo. Che fucilata da posizione impossibile di Simone Zaza. Attenzione al rinvio di Buffon, pallone dentro, Terò! Porta in vantaggio il Chievo al 28esimo, 1-0 per Terò, 20esimo gol in Serie A. Buona la finta, va dentro Garic, ancora Christodoulopoulos da solo, al cross sul secondo palo, la salta, stacca di testa, esordisce con una doppietta in Serie A, Diego Laxalt, è la sua notte, 2-1 per il Bologna. Diamanti prova a metterla dentro proprio per Cristaldo, che gira! Piccola. Cioè, per la galleria dei gol, per la verità ci sarebbe anche questo. Cretino, sono stato anche il gatto mai. Questo che arriva, Ma già avete capito. Piccola, piccola. Non arriva? Piccola. Così. Non arriva, va bene. No, non è arrivato sul tabellino dell'arbitro, ma arriva qui. Tra me, riesce ad andare via, mette dentro! Il tiro non respinto da Buffon! Ancora il Chievo, 2-1, è la rete del Chievo che viene annullata. Non è fuori gioco, no. non è assolutamente fuori gioco. Ti ha fitto servito, tu m'hai detto disgraziato, la pistola m'hai puntata ed un colpo m'hai sparato. Stiamo cercando di parlare pochissimo delle decisioni arbitrali. Oggi c'è stato un episodio a nostro favore e ne prendiamo atto, ma non è stato eclatante. Un domani qualcosa potrà accadere a nostro favore, come è già successo in questo avvio di campionato. Antonio Conte ieri a commento del gol di Paloschi. Saluto un amico di vecchia data di Radio 24, Xavier Iacobelli, oggi direttore di calciomercato.com. Ciao direttore. Buongiorno a voi, buongiorno agli amici produttori di calciomercato.com. Non sarà eclatante, ma errore è stato. Si potrebbe discettare a lungo. Bravo, sull'eclatante o meno. Su quanto sia appropriato l'aggettivo eclatante. In realtà sì, Eclatante lo è, come? Perché soltanto la sportività del Chievo e le reazioni di Sannino e di Campedelli sono lì a dimostrarlo, ha impedito che deflagrasse oggi la questione arbitrale. Non oso immaginare cosa sarebbe accaduto a parti invertite, o se anziché la Juventus ci fosse stata un'altra grande squadra. Ma la verità è che si ritorna sempre al punto di partenza, fino a quando il signor Blatter, il signor Platini, rispettivamente presidente della FIFA e della UEFA, che presumo dovrebbero andare in vacanza su un atollo del Pacifico portandosi una pietra focaia, sono convinti che la tecnologia non serva al calcio, noi purtroppo dovremo assistere a questi scempi, così come, per andare anche oltre confine,

se vede l'Italia che batte la Grecia e la Spagna, poi parliamo dall'Ucraina, cioè ogni partita c'ha una storia a sé, va il calcio è uno sport che va a episodi, un tiro fatto male ti prende le natiche di uno, ti va questo dentro, è sicuro, e Gino lei sa meglio di me che ha la fortuna del calcio, questa sua imprevedibilità, no? Impossibilità di previsione. La Roma come prende la porta fa gol. Sì, però devo dire anche che dietro questi tiri che prendono sempre la porta c'è una grande Roma, così come devo dire che ieri sera Sassuolo non ha pareggiato casualmente a Napoli, ha pareggiato con pieno merito una partita che forse avrebbe anche potuto vincere, ha giocato una grande partita con l'acqua alla gola e contro un Napoli che non so se per stanchezza, certamente per eccesso di turnover da parte di Benitez, forse Napoli non è ancora una squadra completamente matura per assorbire queste rivoluzioni da un giorno all'altro, e magari penso che Benitez l'abbia anche capito ieri sera. Errori simili li aveva già fatti in passato Mazzarri, ricordo una sconfitta a Verona con il Chievo che costò a Napoli parecchio, soprattutto in termini emotivi, qualche stagione fa. Giorgio Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo dire che Conte ancora una volta ha perso un'occasione per stare zitto, perché certo gli eroi arbitrali ci sono, senza bisogno di pensare a complotti, a mozzi, a una storia che ormai è vecchia, però... Ma lei si figuri che l'hanno attribuita a me la frase che ho letto prima di Antonio Conte, Ha detto solo, m'hanno scritto un messaggio, solo un anti-juventino, un tifoso da Rubentus come te, ma che peraltro non si deve dire, può dire, vuole un po' di dignità. Può dire errore non eclatante, non l'ho detto io, ragazzi, l'ha detto Conte. Ah, anzi, ve lo faccio anche sentire, così non creiamo equivoci. Stiamo cercando fin dall'inizio del campionato di parlare pochissimo delle decisioni arbitrali, sia a favore che a sfavore. Penso che oggi ci sia stato un episodio a nostro favore, ne prendiamo atto, niente, non mi sembra niente di eclatante, chissà che cosa, un domani può capitare una cosa a sfavore della Juventus, se andate a rivedere un po' queste quattro partite forse qualcosa c'era a favore della Juventus e nessuno ha detto niente sulle decisioni arbitrali. Ecco, questo l'ha detto Conte, non io. Dica. Sì, no, certo, ma Conte che ancora una volta dovrebbe forse tacere, vedremo poi se sarà coerente nel non lamentarsi. Sì, io credo che si lamenterà tutte le volte che potrà Antonio Conte, perché è così, quindi ha perso un'occasione per stare zitto, però penso che lei abbia ragione, però Conte è questo. Resta il fatto che è una Juventus, al di là del singolo episodio, no, che va sotto la lente di ingrandimento, resta una Juventus che ha uno strisciante quanto preoccupante malessere di stagione, ma si legge secondo me soprattutto nelle prestazioni della Juventus e nella casella dei gol subiti, perché questo è un indicatore importante. Massimiliano Napoli, buonasera signor Genta. Dica. Io volevo riferirmi al fatto che prima lei ha detto che è una Juventus febbricitante. Sì. Per una crisi di risultati che comunque ha portato solo a un pareggio per 1-1 contro il Copenaghen, no? Ma sì, per i motivi che ho spiegato adesso, non solo per il pareggio 1-1 con il Copenaghen, sì. 4 partite contro squadre piccole, perché così è, e 4 volte ad inseguire. Quindi? Riguardo a questo, che le uniche 2 partite in cui hanno tentato di aggredirci, hanno giocato le squadre, perché il Verona, il Chievo e il Copenaghen hanno giocato a prendere, a non prendere gol, sì. E hanno segnato su azioni casuali. E lo so, Massimiliano, la sento male, però la specialità della Juventus è sempre stata quella che l'ha portata dove adesso, al livello di competitività che ha ora. È sempre stata una fase difensiva mostruosa, e non intendo una difesa, ma una fase difensiva mostruosa. Di lì non passava nessuno, nemmeno con i rimpalli, nemmeno con la fortuna. Adesso invece qualche buchetto là dietro, cioè, sentiamo dopo la borsa. No, solo abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio. Tutti convocati. Sembra quasi di vedervi, anche se non posso farlo, Già lì arrabbiati, con gli occhi fuori dalla testa, con le vene del collo che pulsano. Smettila, sei solo capace di urlare contro la Juventus alla faccia dell'obiettività, mi scrive l'ascoltatore. Ma urlo contro la Juventus? Ma secondo voi non posso vedervi ma posso sentirvi. 800 24 00 24, siete sempre tutti convocati, ancora di più. Allora, vorrei chiudere questo capitolo, poi riapritelo quando volete, con quello che ha detto Sannino ieri sera dopo l'annullamento di quel gol a Paloschi, dopo la partita naturalmente, sull'episodio del gol annullato a Paloschi. Sentiamolo. Non è tanto il gol annullato, è il fatto, perché io credo di essere un po' diverso dagli altri allenatori, credo di guardare molto più che si poteva fare qualcosa meglio sui due gol subiti. Allora, l'errore ci può sempre stare, l'arbitro ha dato gol, credo, poi dopo l'assistente ha alzato la bandierina, però ormai star qui a parlare di questa cosa lascia il tempo che troppo. Potremmo essere anche una squadra che potrebbe star qui a dire ma potevamo, perché siamo il Chievo, potevamo fare un risultato diverso, però credo che non tutte le disgrazie arrivino per far male. Come direbbe Moratti, Sannino mi è simpatico, a me è simpatico. Allora, questione contratto di Pirlo. Marotta ha parlato così, ma voi lo sapete come la penso, poi ve lo ripeto. Abbiamo parlato stamattina, devo dire. Avete parlato anche del rinnovo? Perché... visto che avete parlato? Ma questo è un argomento assolutamente che noi abbiamo affrontato, con grande senso di responsabilità, entrambi, io in rappresentanza della società e lui, abbiamo deciso di valutare quello che sarà il suo futuro, diciamo, verso febbraio-marzo. Allora, sapete che con i pronostici non ci azzecco molto, ma il mio è questo: Pirlo andrà via dalla Juventus l'anno prossimo, Pogba prenderà il suo posto nel centrocampo della Juventus e con Pirlo andrà via anche Antonio Conte. Questo è il mio pronostico. Scrivi Franco Piantanina. Roberto Bologna, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Complimenti per la trasmissione innanzitutto. Grazie. Ma io da professore di economia che seguo le società quotate, sì, faccio fatica a non dare una lettura economica di tutti i fatti. Evidentemente. Per cui lancio una proposta molto semplice che, diciamo, rispetta questa esigenza della imperfezione, ma stringe un attimo la mano a chi vuole un pochino più di oggettività. Basterebbe semplicemente introdurre la tecnologia e dare due bonus a ogni allenatore per chiedere una visita della moviola. Basta. Sì, sì. Risolveremo mille polemiche, mille stress sulle curve. Lo so, Roberto, però io faccio. Io da professore di economia faccio una domanda a lei. Sì. Ma perché solo in Italia si avverte questa irrinunciabile esigenza di certezza del diritto nel calcio? Perché non è che all'estero non ci siano errori, ma da noi viene vissuto in maniera, secondo me, molto morbosa. Rispondo in modo molto cinico, perché uno degli elementi di forza delle società quotate in borsa è che possono andare su e giù. Sì. Però guarda caso, nella rosa delle prime 5 o 6 società che vincono i vari campionati ci sono sempre quelle. Quando una società è quotata in borsa può andare male un anno, due massimo, ma non tre. Ma secondo me la distorsione, poi lei insegna a me ovviamente, non solo in questo campo, però secondo me la grossa distorsione è proprio la quotazione delle società in borsa, fenomeno che non è solo italiano, È chiaro che se si introduce il collocamento in borsa c'è un problema, i giocatori sono dei pezzi del patrimonio delle società, sì, la cui valorizzazione è data da criteri completamente soggettivi. Esatto, e questa è una distorsione enorme, perché all'estero invece ci sono dei cespiti immobiliari che fanno parte del patrimonio della società, e su quei valori si può costruire una credibile quotazione. Secondo me, faccio una battuta. Lei, ad esempio, scusi, mi permetta, lei sostiene spesso Balotelli, no? Per me, a me è completamente indifferente, cioè indipendentemente dal colore della pelle, per me è una persona che deve imparare a crescere. Sì. Quindi per me il colore della pelle non c'entra nulla. Ci mancherebbe dipendesse dal colore della pelle. Appunto, dico, quindi uno può essere un cretino o intelligente indipendentemente dal fatto che sia bianco o nero. Questo è ovvio. Ciò detto, il sostenere la valorizzazione di un giocatore ha poi degli effetti positivi anche sulla valorizzazione di fatto, no? Sì. Per cui spesso ci sono delle politiche di marketing su alcuni giocatori che servono in primo luogo a non determinare minusvalenze nelle società quotate in borsa. Lei ha ragione. Se le società quotate in borsa sportive avessero il loro valore costruito su degli asset immobiliari, lo stadio, certo, sarebbe una cosa sensata e non una pagliacciata quale è adesso. E quindi la storia dei rigori dati e non dati, dei gol in fuorigioco. Ma mettete due tecnologie, poi due richieste di misura. Sì, come accade in altri sport. Poi non lo so, Roberto, io, lei avrà certamente ragione, il suo pensiero è quello largamente condiviso. Io resto nella riserva indiana, cioè a me la tecnologia neanche, non perché sono retrogrado, è come il calcio è retrogrado e restio ad ogni innovazione, ma questo da sempre, e forse anche la sua fortuna. Però io resto nella riserva indiana, cioè la tecnologia nel calcio non la sposo come idea. A me piace il calcio così com'è, imperfetto, anche con le sue polemiche, se vogliamo. E tant'è, quindi non chiaro, sono dell'idea che nel 2013 bisognerebbe capire se un pallone è entrato o no, con certezza, ma ripeto, questa è una questione geometrica. Quanto invece la discrezionalità dell'arbitro, secondo me, è intoccabile, almeno nel calcio, ed è la sua fortuna in fondo, perché sennò che staremmo qui a dire, a fare, a pensare? Simone, Bergamo. Buongiorno. Dica. Allora, io sono un tifoso romanista, sì, felicissimo naturalmente, ma... Mancherebbe vorrei... altro, cosa vuole di più? Glielo dico io, vuole? Mi dica cosa Bonucci vuole Bonucci e Barzagli. Ah, vuole anche, diciamo, Bonucci, vuole anche Bonucci e Barzagli? Sì, e poi senza arriviamo quarti o quinti. E mi dice che è contento? Uno contento dice, no, siamo una squadra molto seria, perché... Ad esempio, quel signore che ha segnato ieri sera, Benatia, secondo me è uno che ha Bonucci e Barzagli da invidiare non tantissimo, ad esempio. Non ancora. Purtroppo però abbiamo anche Maicon, Balzaretti e Castagna. Non si dimentichi chi gioca davanti a Bonucci e Barzagli, perché la fortuna di Bonucci e Barzagli, sono bravi giocatori, senz'altro, ma sono quelli lì davanti. E della, sì, fase difensiva della squadra. Ma quelli lì davanti. Secondo me Strootman, sì, Pjanic e De Rossi, sì, non hanno nulla da indicare, niente, a nessun, ma proprio niente. No, ma non lo sto dicendo come valore assoluto, sto dicendo come capacità comunque di coprire il lavoro di quelli che stanno dietro. In questo, la fase difensiva tutta intera della Juventus era... Posso usare questo verbo, questo tempo verbale? Era straordinaria. Adesso forse un po' meno. E quanto alla Roma da quarto posto, io non le credo. Secondo me la Roma, diciamo così, in questo momento è da terzo. Poi vediamo come vanno Juventus e Napoli, che forse hanno qualcosina in più. Però, ripeto, secondo me per la prima volta dopo... gli ultimi 3-4 anni, dopo gli ultimi 3 anni, dopo le ultime 3 stagioni, così la Roma sta esprimendo niente di meno, niente di più del suo potenziale, che è altissimo. Francesco Parma. Ah, salve, buonasera. Salve. Senta, io mi le chiedevo lei di rispondermi, perché penso di essere veramente al di fuori del coro. Sono d'accordo, sì, con lei, con la tecnologia del calcio, che a me piace il calcio così com'è, e d'accordo, sì, anche con l'ascoltatore di prima, che abbia rinnovato il fatto di plusvalente. Ma anche per me, anche perché, ma Francesco, non è questo, chiedo scusa, il ma calcio non mi fa, il tifo calcistico non mi fa battere il cuore. Sono altre le cose che mi fanno battere il, esatto, cuore. Esatto, sì, no, neanche a me, vabbè, si parla. Comunque, io da lei volevo sentire questo, perché a volte mi sento proprio una voce del cuore, anche, sì, con i miei amici del circo. Sì. Allegri. Non ha personalità, non difende i suoi giocatori, è un allenatore, un buon comandante, deve difendere i suoi giocatori, nel bene o nel male. Mi ha mezzo distrutto il Sarawi. Mi sta rovinando a livello calcistico, parlo, anche Balotelli, che il Milan adesso senza Balotelli non ne può fare a meno. Non ha gioco, non legge le partite, è un gran bravo ragazzo, ma come allenatore a mio avviso vale poco. Mazzarri, l'Inter non ha comprato nessuno, quasi nessuno, sembra tutto altra squadra, sì, dell'anno scorso. È un'altra cosa. Mazzarri gli ha dato un gioco. Corrono, sì, sta provando, fanno, sì, è sono una uniti. Molto ordinata, cosa aspetta, molto cosa aspetta difensiva. La dirigenza del Milan a mandare Allegri a fare delle belle mangiate, ma no, del buon vino? Sì, io voglio andare sul gommone, Allegri. Lo sa, l'avrà sentito, no, qualche tempo fa. Vuole andare sul gommone magari prima della pensione. No, ma non sarei così spietato nei confronti di Allegri, che invece secondo me ha fatto fin qui un eccellente lavoro al Milan nel corso di 3 stagioni, uno scudetto vinto, uno perso, ed è stato il suo anno peggiore, e l'anno scorso quella rincorsa che non credo possa essere replicabile. Allora, quanto al non difendere, personalità ne ha, tanto che pronti via ha fatto fuori, quando è arrivato al Milan, il cocco del presidente, che era Ronaldinho, quel paracaro di Ronaldinho. E Sharawi l'anno scorso ha dato, e non poteva fare altrimenti, grande campo e grande spazio a El Shaarawy, straordinario nel giro d'andata, poi nel giro di ritorno lo faceva giocare, ma quello non la prendeva più. Balotelli, beh, insomma, Balotelli è arrivato, ha fatto 16 gol in 20 partite nel Milan con Allegri da titolare, per la prima volta in carriera da titolare fisso, inamovibile, da stella della squadra. Quanto al non difendere i giocatori, torno a ripetere, mi pare strana, mi sono sembrate strane le parole di Allegri l'altro giorno, perché lei qui ha ragione, qui sposo il suo pensiero, il Milan è abituato, è sempre stato abituato a difendere pubblicamente i suoi giocatori, con Balotelli non l'ha fatto, il motivo ancora mi sfugge. Strade, poi torniamo, 800 24 0024, numero verde. L'ho detto ai miei amici, se all'età di 60-65, quando smetterò di allenare, spero di arrivarci, perché magari smetterò anche un po' prima, come vado a dire certe robe, chiamatemi un dottore bravo, che forse è meglio. Preferisco magari verso quell'età lì andarmi al mare, magari su un gommone. Tutti convocati. Ragazzi, quando volete sapete essere banali come pochi, con la tecnologia nel calcio i giornalisti non avrebbero più lavoro, niente discussioni, ma perché, cosa farete voi giornalisti senza polemiche poi? Ma scusa, io vi chiedo, cosa fareste voi invece alla mattina quando parlate di calcio all'ora del cappuccino? Ma perché noi? Pensate a voi, vi annoiereste a morte secondo me. Michelino su Twitter, andate su Twitter, così scoprite il mio compagno di merende da lunedì e per 1 ora e 20, perché tutti i convocati, ripeto, grazie a questo successo planetario sarà più lungo. Dal 30 settembre 20 minuti in pro di trasmissione, scrive Michelino, per parlare ancora più di calcio, no grazie, ne ho già abbastanza, ma anch'io, dicevo prima, il tifo calcistico non mi fa battere il cuore ed è vero, le moto sì. Michelino, ha sentito ieri Jorge Lorenzo, campione del mondo, moto mondiale, nostro ospite, più o meno a quest'ora? Se non lo ha fatto, eccolo qua. In questo momento non è intelligente fare dei conti, perché siamo talmente lontani a punti de Marquez che solo teniamo un'opzione per vincere il mondiale, che vincere tutte le gare che mancano, vincere molte. La cosa è a pari punti con me, ancora fino a qui, lui sempre può sorprendere, però di certo Marco e io abbiamo vinto 5 gare, tutte e due le stesse gare, e siamo adesso più veloci, però ancora Dani non è morto e ancora tiene possibilità del mondiale. Valentino Rossi ha detto: Lorenzo parte perfettamente, fa i primi due giri in cui massacra tutti, io non so come fa, ha detto Valentino Rossi, glielo spieghiamo? No, meglio di no, meglio di lui ancora non capisci come si fa, perché lui è talmente bravo, talmente talentoso, che quando, se lui lo sappia questo, allora per me sarà molto molto difficile di batterlo. Dicono che è vecchio Valentino, qui in Italia dicono che è vecchio. Io penso che con 34 anni ancora puoi essere molto competitivo, ancora puoi essere campione del mondo, e lo ha dimostrato tanti altri piloti in tutta la storia del mondiale. Ultimamente Biaggia è stato campione del mondo del Superbike, Carlo Cieca anche quasi con 40 anni, Biaggi con 41. È certo che era un campionato diverso, che Superbike non tiene lo stesso livello che MotoGP, però anche non è facile conseguirlo col campionato. Jorge Lorenzo, questo, come dire, vale, pensa un po' alla Superbike, potrebbe essere il tuo futuro, almeno io la leggo così, sarò malizioso. Davide Verona, Roberto Padova, Marco Pavia, buongiorno Davide. Buongiorno a voi. Senta, io vorrei così far la voce fuori dal coro, sì, e criticare un po' tutto il sistema. Addirittura? Ma secondo me mi sembra che stiamo esagerando a chiacchierare di quelli che non sono i veri problemi da affrontare. E proprio come quando avveniva magari un bel po' di anni fa, un paio di millenni fa, nel 70-80 d.C., quando si era trasformato in un'arena, ognuno aveva i propri campioni. Davide, mi sto un po' perdendo, a che punto? È molto semplice, stiamo parlando del calcio mattina, mezzogiorno e sera, sì, quando sarebbe più opportuno parlare di problemi un po' più seri, del paese. Va bene, ok, ci sono contenitori opportuni. Qui parliamo di calcio, di che devo parlare? Rubo il lavoro a Varisoni, non so. Sarebbe meglio togliere di mezzo un bel po' di trasmissioni. Oh, bene, ma se lei, ma però se lei mi chiama e mi sta ascoltando, vuol dire che proprio schifo non le fa, no? Così come quelli che dicono: ma che schifo, giro, cambio canale, ma faccia. Io non ho detto che. Se lei è qui a parlare con, è qui a parlare con me, ma no, ma io dico, ma se è qui a parlare con me vuol dire che magari un interesse ce l'ha. Poi parliamo pure di massimi sistemi, qui parliamo di calcio, che è un gioco, un divertimento. Perché toglierci il divertimento? Dobbiamo sempre stare con il cilicio a pensare a quanto siamo poveri e sfigati, ma su via. Roberto, Padova. Sì, ciao. Ciao. Ieri sono stato a vedere la partita Chievo-Juve. Io sono un ciclista, però ho fratelli e amici che sono super sportivi di calcio e delle volte mi coinvolgono. Io da buon italiano ci casco. Devo dire al tifoso della Roma di prima che Theroux è alla pari di Bonucci e Barzagli, se non superiore. Ieri, oltre al gol, ha fatto una partita veramente da campione del mondo. Non è la prima, Theroux è un gran bel giocatore. Io sono equidistante, nel senso che quando potevo andavo a vedere il Padova in Serie A, però adesso devo andare a Chievo, adesso, dove devo dire che la tifoseria è sempre spettacolare. Sì. Tranne ieri, un episodio di due deficienti che insomma ci sono sempre, che hanno rubato la sciarpa a uno juventino. Dopo gli hanno detto: adesso vieni a prendertela. Volevo dire però che voglio essere equidistante, nel senso che io la partita l'ho vista, l'errore del rigore c'era, a parte che nessuno ha capito niente, perché poi subito dopo la Juve ha risegnato del rigore, cioè del gol, gol annullato a Paloschi. È chiaro che è stato un errore del guardaline, no? Mi sembra evidente. Però non si capiva, cioè io allo stadio, noi eravamo in tribuna, non abbiamo capito niente. Poi è venuta di qua la Juve, ha segnato 2-1 lei, è annullato, non si capiva neanche quello là perché era stato annullato, sicuramente il gioco era ancora fermo. E quindi secondo me l'arbitro era un po' in pappa, tanto che negli ultimi 20 minuti c'era forse, probabilmente dalla nostra posizione, insomma, vedevamo rigore per la Juve. Roberto, lei non fa altro che confermare la mia teoria: arbitrare una partita di calcio è di una, soprattutto oggi, di una difficoltà clamorosa, perché il gioco ha velocità doppia rispetto a ma lui stesso si è condizionato, ma senza andare all'anteguerra, ha una velocità spaventosa il gioco, e quindi ad arbitrare una partita di calcio è un lavoraccio, è un mestiere duro. Vogliamo che non sbaglino mai, ma perché? Perché possiamo sbagliare tutti e loro no? Perché dobbiamo piazzargli le telecamere sul collo? Ma lasciamoli lì, lasciamo che sbaglino. Marco Pavia. Buongiorno. Ringrazio la centralinista che mi ha chiamato e mi ha convocato. Ma siete sempre convocati tutti i giorni, dica. Dunque, volevo tornare sul suo pronostico: prossimo anno via Pirlo e con lui anche Conte. Condivido Pirlo, cioè il fatto che Pirlo se ne vada. Per quanto riguarda Conte, anche quello, però se per caso la Juventus dovesse arrivare molto vicina alla vittoria, mettiamo in semifinale, Conte non potrebbe farci un pensierino e dire: ma chi me lo fa fare? Non è una cosa che auspico, che vadano via Pirlo e Conte, cioè non è che posso essere d'accordo o non d'accordo. Secondo me accadrà questo, per quanto riguarda Pirlo, per ragioni anagrafiche, perché c'è un contratto da rinnovare, perché è anche giusto forse cambiare e dare stabilmente spazio a Pogba in quello che è il suo vero ruolo, cioè centrocampista centrale, quindi il futuro è già pronto. Quanto a Conte, magari io credo che possa rivincere questo scudetto, che rivincerà questo scudetto. Champions League molto difficile da immaginare, da pronosticare, però credo che il ciclo di Conte, per le ragioni di cui abbiamo tante volte parlato, è un tecnico che ti chiede tutto e tutto glielo puoi dare, secondo me, per un massimo di 3 anni, e credo che il ciclo di Conte con questa squadra sia finito, ma in maniera molto naturale e fisiologica. Questa è la mia idea. Franco Piantarini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ci sentiamo domani alle 2, ciao.